La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Cristiana vive in Asia da più di 25 anni e nel 2005 ha fondato una propria società di consulenza che impiega 30 persone. Katie va alla ricerca dei talenti artistici italiani e li promuove nel suo paese. Chiara ha coronato il suo sogno di vivere in Cina e ora è general manager a Shanghai di un'azienda per la progettazione di interni. Loro sono alcune delle protagoniste di Un Ponte in Rosa, una storia dedicata al rapporto tra internazionalizzazione e crescita professionale femminile, ambientata ai giorni nostri in una metropoli chiamata Shanghai. E abbiamo sentito che cosa succede a Shanghai. Buongiorno a tutti, benvenuti alla Quota Rosa. Francesca Di Biagio, giornalista ed autrice proprio del reportage Un Ponte in Rosa. Andiamo a scoprire che cosa succede, qual è la rivoluzione delle donne in Cina. Allora, inaspettatamente la rivoluzione delle donne in Cina, io devo dire non conoscevo affatto il continente cinese, è il fatto che c'è una grande meritocrazia che poi si estende anche alle donne italiane che lavorano lì. E devo dire, io della Cina ho visto soltanto Shanghai è la capitale economica, quindi come io anche dico nel mio reportage è un po' il termometro per misurare i cambiamenti sociali in atto in questo grande paese, nella Cina appunto. Certamente credo che nelle province la realtà sia diversa. Quello che ho visto a Shanghai è che c'è un grande fermento economico che si riversa su tutte quante le aziende, anche straniere, che sono presenti lì, quindi si generano nuovi posti di lavoro e le donne hanno sempre più importanza. Nella società cinese diciamo che le donne comunque hanno sempre avuto un ruolo paritario con gli uomini, quindi magari rispetto a quanto succede in Italia, purtroppo in Cina, purtroppo per noi, perché siamo più indietro sotto questo punto di vista, le donne godono di condizioni paritarie rispetto agli uomini. Quello che sta avvenendo in Cina è che c'è questa grande fame di manager e molti di questi manager richiesti sono proprio donne cinesi ma anche donne italiane, in questo che secondo me la nostra impresa gioca un ruolo fondamentale, perché sta assistendo appunto a questo cambiamento economico dove c'è sempre più spazio per la donna a livelli, ripeto, dirigenziali. Quali sono state le testimonianze che tu hai raccolto? C'è stato un caso che ti ha toccato particolarmente? Allora, io ho raccolto in totale 10 testimonianze, sono state 5 donne cinesi che lavorano in Cina per aziende italiane e 5 donne italiane che lavorano sempre in Cina e sempre per aziende italiane. E, allora, premesso che sono tutti casi molto interessanti, allora ci sono state due storie che mi hanno colpito in maniera particolare, comincio da quella cinese, è la storia di una ragazzina, io dico ragazzina perché comunque è molto giovane, è una ragazza che non ha nemmeno 24 anni, e questa ragazza lavora, è una ragazza cinese, lavora per un'azienda italiana che è una micro impresa, si può dire, perché più micro di così, è composta da un solo elemento e da una persona, un ingegnere, è una piccola azienda di trading per la commercializzazione di pannelli fotovoltaici e di materiali legati all'edilizia, la dirige un giovane di meno di 30 anni e questo ragazzo ha preso questa ragazza con sé come assistente marketing e questa giovane prima di lavorare, è la sua prima esperienza lavorativa perché prima di lavorare con lui ha terminato i suoi studi in marketing, questa esperienza le ha aperto un altro mondo, che magari è un mondo fatto di piccole cose che però alla fine diventano grandi, è un mondo fatto di corsi di italiano, perfezionamento dell'inglese, viaggi a Hong Kong e in altre parti del mondo, quando questa ragazza finora non aveva mai viaggiato, scambio di opinioni con italiani ed europei. Ecco, sembrano piccole cose, però per una ragazza cinese, un po' come penso che per una ragazza di tutte le età che non ha mai fatto queste esperienze, sono momenti estremamente importanti perché sono formativi. Allora è qui che secondo me scatta anche l'interesse. Come la nostra impresa all'estero veramente non soltanto esporta il meglio del Made in Italy, ma svolge un lavoro le cui ripercussioni poi si ripercuotono sull'emancipazione femminile, anche emancipazione femminile straniera in questo caso. E l'altra storia invece? Ecco, un'altra storia che mi ha particolarmente colpito è la storia di Marcella Zaccagnino, che è la console aggiunto a Shanghai. Mi ha colpito perché Marcella Zaccagnino, che è giovane, con una semplicità estrema mi ha parlato delle difficoltà, dei problemi, ma anche delle sfide che incontra un diplomatico. Lei, ecco, premetto che era l'unica rappresentante, era diciamo l'unica donna che lavorava nelle istituzioni intervistata nel mio reportage, perché poi le donne tutte quante molti provenivano dal mondo dell'impresa. Ecco, mi ha colpito perché? Perché secondo me Marcella Zaccagnino incarna un nuovo ruolo della diplomazia, delle istituzioni, che non è più la diplomazia staccata dal cittadino, ecco il console che l'abbiamo sempre visto nell'immaginario arroccato nei suoi palazzi, è una diplomazia che scende e in mezzo alle persone e che anche dà una mano ai tanti italiani manager, ma anche appunto italiani che vanno non soltanto per affari all'estero e che hanno bisogno di avere magari nel consolato una figura di riferimento, e lei con questa semplicità estrema mi ha raccontato le sue difficoltà, i suoi problemi, appunto come ripeto le sue sfide, e questo secondo me è un messaggio positivo anche un po' per tutto, diciamo, il corpo per svecchiare la nostra diplomazia. Senti, il reportage è stato presentato in Senato il 28 aprile e il 3 giugno nella sede di Confindustria alla Spezia. Cosa hai intenzione di fare? Quali sono i tuoi progetti rispetto a questo reportage? Allora, bella domanda. Innanzitutto, allora, il reportage ha avuto il patrocinio del Senato, dove appunto è stato presentato, come giustamente detto, Camera di Commercio Italiana in Cina e Fondazione Italia Cina. Ha avuto la sponsorship di due grandi aziende che hanno dimostrato spirito di imprenditorialità, che sono due compagnie di brokeraggio assicurativo che hanno fatto da sponsor, e senza di loro non sarei riuscita a fare nulla, e nonostante la crisi hanno voluto investire, sono l'italo-cinese Speed Insurance Brokers e l'italiana BC&I Insurance Brokers. E sono proprio da pochissimo, l'ho presentato pochi giorni fa presso la sede di Confindustria La Spezia, la prima sede di Confindustria che ha accolto il mio reportage, mi ha fatto anche una grande accoglienza, piena di donne, manager di Confindustria, è stato veramente un bel momento. Allora, progetti per il futuro, c'è un interesse da parte di Rai International, sarà trasmesso sull'Epida TV, che è il primo esperimento di TV digitale dell'Emilia Romagna, è già trasmesso per intero su alcuni siti internet. Allora, quello che io vorrei, e magari approfitto anche di questa occasione di Radio 24, io vorrei che Un Ponte in Rosa diventasse un appuntamento annuale, non soltanto in Cina ma anche in altre parti del mondo. Quello che intendo dire che a me piacerebbe molto poter sviluppare progetti giornalistici di questo genere che indaghino lo stato della nostra impresa all'estero attraverso gli occhi delle donne, quindi quello che la nostra impresa all'estero produce sull'emancipazione femminile. E allora, con questo augurio, Francesca Di Biagio, giornalista ed autore del reportage Un Ponte in Rosa. La quota rosa. Tra le due famiglie non c'erano mai stati rapporti sereni. Ogni motivo era buono per litigare. Discutevano di continuo per beghe condominiali, anche di poco conto. I vicini lo sapevano bene che quelle due donne, nonostante la grande differenza d'età, non si potevano vedere. Ma mai avrebbero immaginato che la rabbia e il rancore che covava tra le mura delle rispettive case avrebbe potuto provocare una tragedia simile, addirittura un omicidio. Giovedì sera, al culmine dell'ennesima lite, in un palazzone di Via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca, una anziana di 79 anni ha ucciso a coltellate una giovane di 24, madre di due bambini di 3 e 5 anni, che abitava al piano di sopra. La sintesi è di Patricia Tagliaferri del Giornale ed è praticamente, descrive la tragedia di Tor Bella Monaca, dove una vecchietta, quelle che noi generalmente aiutiamo ad attraversare la strada, a portare le buste della spesa, a cercare di aiutare in qualche modo, ha ucciso una giovane di 24. Insomma, una storia che ci fa riflettere su come le donne sono anche protagoniste e non solo vittime di violenza. Per parlare di questo abbiamo con noi la professoressa Gemma Marotta, docente di criminologia all'Università La Sapienza di Roma, e l'avvocato Celestina Tinelli, membro del Consiglio Superiore della Magistratura e membro del Comitato Pari Opportunità del CSM. Io inizierei proprio con la professoressa Marotta. C'è un cambio di mentalità nelle donne, o le donne sono sempre state anche assassine? Le donne sono sempre state anche assassine, anche se in percentuale molto molto minore rispetto agli uomini. Calcoli che le donne in generale sono denunciate, le donne denunciate rispetto al totale dei denunciati sono massimo tra il 13, 15, 16% del totale dei denunciati, non raggiungono il 5% dei detenuti, quindi ovviamente ci sono sempre state donne assassine, ma in percentuale molto minore rispetto agli uomini. Noi ricordiamo i grandi delitti degli anni 50, tra cui la saponificatrice, cioè ci sono state delle figure anche in Italia abbastanza contrastanti su questo. Certo, sono casi particolari comunque, che ovviamente colpiscono l'immaginario collettivo, tengono banco sui mass media per mesi e ovviamente colpiscono e quindi danno questa impressione, questa percezione di aumento di violenza, ma soltanto semplicemente perché sono dei casi particolari come quello di Tor Bella Monaca che colpiscono in modo particolare, ma sicuramente c'è sempre, insomma, il livello è sempre molto basso, non è che si è ribaltata la situazione rispetto agli anni passati. Lei dice che chi compie i delitti nella maggior parte sono gli uomini. Sì. E quindi le donne sono quelli che li subiscono praticamente, sono le vittime, no? Jack lo squartatore insegna. Certo. Mm. Però non crede che c'è una reazione poi a un certo punto anche delle donne rispetto alla violenza maschile, quindi alle volte i delitti, come per esempio è successo in Cina recentemente, l'assassina è diventata un'eroina. E per quale motivo? Perché Deng Zhuoyuo, pedicure di 21 anni, è stata accusata di aver ucciso a coltellate un alto funzionario locale, ma perché questo funzionario locale aveva tentato di violentarla. E che è successo? Il popolo si è mobilitato e ha detto è un'eroina e va assolta. Ecco, quante volte le donne compiono i delitti per difendersi? Beh, diciamo percentualmente molto spesso, perché in realtà al di là delle assassine pure semplici, cioè le donne tra virgolette cattive che premeditano, organizzano il delitto, molte volte nel rapporto autore-vittima si ribalta la situazione, quindi la donna da vittima diventa poi autore del delitto, ma diciamo in pratica è una forma di quasi di legittima, tra virgolette, legittima difesa. Invece lei vede una differenza sociale per quanto riguarda le donne assassine, cioè tornando al delitto di Tor Bella Monaca, questo delitto è stato compiuto in una periferia urbana degradata come quella lì di una grandissima città come Roma, ecco, c'è una differenza oppure i delitti avvengono sempre in qualsiasi strato sociale? Avvengono in qualsiasi strato sociale, la motivazione poi è ovviamente diversa a secondo delle situazioni. Questo è un caso particolare, l'autore è la donna, l'assassina è una persona molto anziana, quindi bisogna vedere se c'è una forma di patologia senile, il deterioramento dei rapporti, il vivere diciamo in un agglomerato urbano, in un contesto urbano di forte densità abitativa, i conflitti condominiali, tutto un insieme di fattori che ovviamente non avvengono in situazioni di persone appartenenti a classi diciamo più agiate. In questo caso ci sono più motivazioni di interesse, di denaro o anche in questo caso forme psicopatologiche. È molto variegata la situazione, bisogna vedere il contesto, la situazione anche individuale, psicologica delle singole persone. Celestina Tinelli, membro del Consiglio Superiore della Magistratura e membro del Comitato Pari Opportunità del CSM, buongiorno. Buongiorno. Intanto vogliamo chiedere, tanto per informarci e per informare, quante sono le donne nel CSM? In totale siamo 6 su 33. 24. Ah no, perché si sono ridotti, prima erano i 33 i membri. Ora siamo 24 più i componenti di diritto che sono i due Presidente e Procuratore Generale della Cassazione, naturalmente il Presidente della Repubblica che presiede, ultimo ma non ultimo naturalmente, quindi in totale 27. Siamo 6, direi che siamo aumentate rispetto a, anzi moltissimo rispetto agli altri anni, se lei considera che dal 1958, quando è nato il Consiglio Superiore della Magistratura come funzionamento, fino all'inizio di questa consigliatura, solo 10 donne fra togate e laiche erano state presenti, per cui 6 tutte in una consigliatura è già un salto in termini di presenze importante, speriamo che così continui, anche perché io credo che sia una risorsa indispensabile la presenza femminile. Quante donne ci sono nelle carceri italiane? Stanno aumentando? Di quali crimini sono accusate? Le donne non sono aumentate. Oggi, ad oggi, i dati del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria proprio aggiornati corrispondono al 4,4%, cioè sono 2.771, gli uomini sono 60.381, il 95-60%. Non c'è un aumento. Dai dati posso riferirle questo: fra le pochissime donne che delinquono comunque attualmente detenute, i reati, diciamo che le percentuali sui reati più frequenti, che sono quelli contro il patrimonio, legge droga e reati contro la persona, più o meno si equivalgono. Quindi diciamo che fra quelle pochissime che delinquono commettono più o meno gli stessi reati, insomma non c'è molta differenza. Per quanto riguarda addirittura la legge sulla droga, le donne che delinquono e che violano queste disposizioni sono in maggioranza, sono di più rispetto agli uomini. Ma sono... Poi gli uomini sono più coinvolti dal punto di vista dei reati contro l'amministrazione pubblica, oppure i reati di associazione di stampo mafioso. Però le dico, la cosa particolarità è che fra le donne che delinquono più o meno commettono gli stessi reati degli uomini. C'è, omicidio c'è, nel senso sono di meno, però la percentuale all'interno di questa minoranza certo. È uguale a quella degli uomini a specchio. Sì. Quindi c'è l'omicidio. L'omicidio generalmente è connesso a reati di mafia o a reati di terrorismo? Certo, sì, nella maggior dubbio. Parte dei casi, oppure omicidio semplice, come si tratta di questa certo, signora sì. di Tor Bellamone. Diciamo che per quanto riguarda i reati di mafia non è corretto, perché per quanto riguarda la mafia è un'associazione di carattere maschilista, per cui la donna non è prevista all'interno della mafia, c'è nell'andrangheta, dove l'andrangheta è costituita a livello familistico e quindi le donne spesso svolgono delle attività di vicariato, cioè di supplenza nel caso, ma anche il capofamiglia e quindi... Ma nella mafia questo non accade assolutamente. Ecco, poi noi avremo nella seconda parte, nell'altra parte, Salvo Sottile, che ha scritto un romanzo invece proprio ambientato in una storia mafiosa che coinvolge una donna, ma vediamo quanto sarà appunto vero e quanto sarà falso. Sì. E invece per quanto riguarda il terrorismo, sì. La maggior parte delle donne accusate di crimini, diciamo di omicidio, fanno parte di questa categoria? Sì, nel terrorismo c'è più parità. Anche come componenti, anche se prevale sempre quella maschile, però la Lioce, la Banelli, insomma, sono comunque donne che hanno un rapporto di potere, di relazione all'interno di questi gruppi che è paritario. Non subiscono. Quante donne invece compiono reati proprio per difendersi dall'aggressione degli uomini? Ecco, direi che la maggior parte sono proprio reati in autodifesa, addirittura anche per quanto riguarda gli omicidi commessi dalle donne, lì avete una bravissima e famosa criminologa che lo potrà confermare e dire meglio di me, comunque sono delitti di reazione e di autodifesa, tanto è vero questo che quasi mai la donna che commette un omicidio si suicida, mentre può accadere soprattutto nei reati all'interno della famiglia che l'uomo, dopo aver commesso questi reati, passi al suicidio, quindi ad uccidere se stesso, alla donna questo non accade e l'interpretazione è nel senso che non c'è quella forma di possesso che invece esercita l'uomo e nel momento in cui quindi tutto sparisce a causa del proprio comportamento omicida, addirittura passa al suicidio, ma in genere le donne non si suicidano dopo aver commesso gli omicidi. La quota rosa. In quella villa di Partinico si erano dati appuntamento i boss di Mezza Sicilia. Li aveva convocati Gianni Turturro, un palermitano giovane e rampante, ultimo erede della dinastia di quella vecchia mafia spazzata via dai corleonesi. All'ordine del giorno c'era il pentimento di Pino Martinez. Turturro negli ultimi anni aveva volato basso, controllava il mandamento di Porta Nuova e fino ad allora non aveva mai dato problemi. Quando vedeva Occhiuzzo e Giaconia, di solito camminava a testa bassa. Parole che sono scritte nell'ultimo romanzo di Salvo Sottile, giornalista ma anche esperto di mafia, Più scuro di mezzanotte, una storia di mafia, Sperling e Kufer. Buongiorno Salvo. Buongiorno Elisabetta, buongiorno agli ascoltatori. Allora, tu hai scritto un libro che parla di donne mafiose, ma esistono le donne mafiose o la mafia è maschilista, come ci diceva poc'anzi Celestina Tinelli? No, la mafia per guardare al futuro pesca dal passato e si è adeguata ai tempi. Adesso non si pente più nessuno, non si spara più un colpo di pistola. La Sicilia, Palermo è diventata una specie di Svizzera e quindi, siccome i mafiosi non si fidano più di nessuno, hanno passato il loro testimone alle loro donne, alle loro compagne. È tornata in auge una mafia antica, una cosa nostra molto insabbiata, che preferisce il silenzio al rumore, alla strategia di attacco frontale allo Stato. In questa trama, in questa cosa nostra avvolta quasi in una bolla, ho costruito questo romanzo che si chiama Più scuro di mezzanotte, dove in realtà la mafia fa solo da cornice e ci sono due donne, c'è un giallo da risolvere, c'è una donna scomparsa nel nulla e un'altra donna, una donna magistrato che cercherà di trovarla e per colpa di questa ricerca finirà per dubitare perfino della sua stessa ragione. Sono due donne cresciute a due latitudini opposte della stessa città, non si conoscono eppure diventeranno l'una l'ossessione dell'altra. È una storia che darà grandi spunti di riflessione, ma anche, spero, per gli ascoltatori che lo leggeranno, grandi spunti di emozione. Quindi, insomma, una storia dove c'è una donna mafiosa e una donna non mafiosa. Una donna mafiosa e una donna non mafiosa, ma la donna mafiosa diventerà mafiosa quasi senza accorgersene in realtà, perché questa donna che si chiama Rosa è una donna colta che in realtà vorrebbe sfuggire soltanto a un padre opprimente che la tiene chiusa in casa, invece conosce un uomo che la porta via, fanno insieme la cosiddetta fuitina, cioè scappano insieme e poi però Rosa si rende conto di essere finita in un tritacarne. Non è facile essere la moglie di un latitante e avere una vita normale, avere delle amiche, avere una vita sociale, quindi passa da un covo all'altro, vive avvolta in questa penombra, in questo buio, in questo scuro, più scuro di mezzanotte, in cui Rosa diventerà lentamente un'altra donna, una donna molto più pericolosa di quello che sembra. Ci ricorda un pochino anche la testimonianza della figlia di Totò Riina, quando lei poi ha deciso, no, di dare questa intervista. Vogliamo poi, a proposito proprio di donne e mafia, anche ricordare Rosetta Petrosino, arrestata a Pasqua, e ha detto agli inquirenti: ma per arrestarmi potevate almeno aspettare dopo Pasqua, in modo tale che potessi passare le festività con i miei figli. I carabinieri dovrebbero seguire, no? Sì, addirittura dovrebbero rispettare uno strano calendario in realtà. Sì. Ma sai, c'è una simbologia anche nella mafia, una sorta di legame con dei riti pagani. In realtà questi mafiosi latitanti, comprese le loro mogli, fanno una vita assurda, una vita orribile, e in questo orrore però vivono bene. Per un latitante il massimo della vita è poter trascorrere il sabato sera con la moglie per mangiare una pizza. È una vita completamente rovesciata rispetto alla nostra, una vita completamente parallela. All'interno del mio romanzo i mafiosi sono ripresi con i loro tic, con le loro miserie quotidiane, con i loro tormenti. Noi spesso pensiamo che il mafioso sia uscito da un film di Francis Ford Coppola, no? Quasi una controfigura del Padrino col cessato e la limousine. Invece i mafiosi poi sono persone come noi, normali, che vivono la loro quotidianità. Ecco, all'interno di Più scuro di mezzanotte ho cercato di fotografare questi mafiosi, le loro donne, i loro tormenti, le loro miserie, le loro inquietudini, attraverso questa lente di ingrandimento, attraverso un racconto dentro una città completamente silenziata, o meglio, visto che ormai a Palermo i giovani sono diventate le gambe del futuro, iniziano a ribellarsi a questa logica mafiosa, a questa cultura della mafia, A questo grande riscontro corrisponde poi un silenzio profondo, che è quello di Cosa Nostra, che sta cercando di convincere il mondo intero che non esiste, che non è mai esistita. Questa è la contrapposizione che troverete all'interno di Più Scuro di Mezzanotte. Noi ti ringraziamo, e soprattutto un romanzo qui di denuncia, come poi dice anche il procuratore antimafia Pietro Grasso, dice sempre: attenzione, la mafia adesso fa finta di non esistere, ma esiste sempre. Salvo Sottile, Più Scuro di Mezzanotte, una storia di mafia, Sperling e Kufer. Professoressa Marotta, abbiamo sentito come la mafia cambia, come le donne si trovano poi coinvolte in organizzazioni criminali. Condivide la tesi di Celestina Tinelli che nell''Ndrangheta le donne sono più forti, o quella di Salvo Sottile che nella mafia anche le donne stanno assumendo un ruolo? Condivido più la versione di Salvo Sottile, sicuramente. D'altra parte le donne ci sono sempre state, ovviamente prima erano molto più nell'ombra, ma non ci dimentichiamo le brigantesse della seconda metà dell'Ottocento, che esistevano realmente, ci sono storie documentate. Nella mafia stavano più nell'ombra, le donne hanno incominciato ad avere un ruolo, diciamo, più attivo dalla grande diffusione del traffico di stupefacenti come corrieri della droga, poi piano piano hanno preso piede fino ad arrivare anche a posizioni di vertice, quando l'uomo è detenuto o latitante e la donna che fa da tramite e tiene in piedi l'organizzazione, la famiglia. Nella camorra invece? Abbiamo sentito il caso di Rosetta Petrosino, no? Che è stato un po' sui giornali a Pasqua per questa sua battuta rispetto alle festività. Sì. Beh, la camorra, al di là del fatto che proprio anche come struttura è completamente diversa, nella camorra la donna ha sempre avuto un po' un ruolo di manovalanza, sia nel campo dello sfruttamento della prostituzione, sia per quanto riguarda il contrabbando. Insomma, la donna era quella che vendeva le sigarette di contrabbando, ci sono stati fatti anche dei film, girati dei film su questo argomento. Con Sofia Loren, insomma. Comunque la donna nella camorra, anche nella camorra in certi casi ha avuto anche dei ruoli importanti. In ogni caso le donne in tutte le organizzazioni entrano o per matrimonio o comunque per rapporti di parentela o comunque per sposando magari il boss o l'appartenente, l'affiliato a un'organizzazione, quindi c'è sempre comunque un legame molto forte dal punto di vista affettivo con gli uomini delle organizzazioni. Allora, ringraziamo la dottoressa Gemma Marotta, ricordiamo docente di criminologia alla Sapienza di Roma e anche docente di un master, giusto? Sì, di criminologia, come si intitola? Non docente, sono il direttore del master. E in teoria metodi nell'investigazione criminale. E vengono molte donne a seguirlo? Sì, più donne che uomini. Più donne che uomini, ma appartenenti alle forze dell'ordine o anche... Ci sono allievi sia appartenenti alle forze dell'ordine che neolaureati, che avvocati, insomma biologi anche, perché ovviamente c'è anche il settore di biologia forense. In ogni caso devo dire che sia nella mia esperienza didattica come professore all'università nei corsi di laurea, sia per quanto riguarda il master, la criminologia attira moltissimo, molto di più le donne degli uomini. E speriamo che il nostro intuito ci aiuti in questo. Avvocato Celestina Tinelli, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, uno dei pochi, abbiamo sentito, ancora troppo pochi, ma noi lottiamo, e volevamo chiederle quindi un parere su quello che ha sentito, visto che lei ci diceva che le donne sono più preponderanti nell''Ndrangheta. Sì, no, ma c'è semplicemente un malinteso. Io parlavo della gestione del potere in via diretta. Cioè, poi ovvio che ci sono donne che sono collegate, che svolgono anche mansioni, però come ci ha riferito la criminologa, sono comunque legate alla famiglia, cioè sono mogli di, figlie di. Io intendevo, tant'è vero che rispetto all''Ndrangheta volevo appunto significare che possono anche svolgere attività di supplenza del capo, e solo nell''Ndrangheta questo accade. Sono comunque dati che io rilevo dalla Direzione Nazionale Antimafia, insomma, non è. Quindi sicuramente commettono reati, l'ho detto all'inizio, infatti dal punto di vista dei reati di associazione mafiosa, cioè, le donne ci sono, però non svolgono un potere, diciamo, non hanno il potere di dare ordini e di determinare le linee di intervento dell'associazione mafiosa. Quindi lei, ecco, allora è la stessa tesi poi di Salvo certo, Sottile, sì, perché sì. Lui dice questa donna si trova coinvolta ad essere mafiosa, certo. Ma non sa nemmeno lei per quale motivo, ecco, è trascinata. Comunque sono, in ogni caso subiscono e sono allo stesso tempo anche vittime, ecco, in ogni caso di maschi, poi delinquono, su questo non ci piove. Quindi io volevo solo dire che dal punto di vista della direzione le donne solo nell'andrangheta possono essere rintracciate con un potere autonomo. Ecco, c'è stato mai un arresto di una donna veramente boss, cioè al vertice di un'organizzazione criminale? Sì, nell'andrangheta è successo. Erano naturalmente supplenti, però svolgevano, cioè supplenti di un boss maschio, però stavano svolgendo ed erano capi di famiglia all'interno dell'andrangheta. Non ricordo francamente i loro nomi e cognomi, ma ce ne sono state alcune ed è per questo motivo che le posso dire che così è accaduto e così accade. Io sento che lei è impegnata perché ci ha detto che stava proprio a un convegno sullo stalking, altro tema importantissimo, la lasciamo andare e purtroppo dobbiamo denunciare non tanto le violenze perpetrate dalle donne come l'anziana signora di Tor Bella Monaca, ma anche una donna violentata in un garage a Roma, quindi la violenza contro le donne continua. La quota rosa. Mi vedrei così se dovessi essere il personaggio di uno di quei telefilm anni 70. Un po' sfigato, un po' malinconico, un po' perdente, un po' saggio. Il bello dei punti di vista è che con sufficiente fantasia si può affermare qualunque cosa che risulti almeno parzialmente condivisibile. Einstein lo ringrazio spesso, l'ho anche appeso al muro, una di quelle solite facce alla Doc di Ritorno al Futuro, quella con la lingua di fuori, quando tutto va a rotoli e fuori piove e io non ho altro che queste pareti d'inverno, 365 giorni l'anno, guardo il poster di quel vecchio pazzo e penso che mi suggerisca quanto tutto sia relativamente giusto o relativamente sbagliato e quanto io sia relativamente uno sfigato. Parole che prendiamo da un piccolo libro, un mini concepts di musica e letteratura, Dove sei Charlie, una storia di poesia e rock and roll. Avrete riconosciuto sicuramente la London Calling storica dei Clash e noi abbiamo qui in studio oggi Holly Orange, l'autrice di questo piccolo libretto e adesso pubblicherà anche storie di rock and roll, sporche storie di rock and roll. E come possiamo definirti, Holly? Una scrittrice rock, una poetessa underground, una poetessa scrittrice rock underground? Tutti e tre i modi sono fighissimi, quindi va bene, facciamo un po' a turno, uno alla volta, come capita. Però ecco, il rock, basta che ci sia il rock e va tutto bene, tutto giusto. Tu quanti anni hai? 22. 22. E frequenti l'università, cioè una vita parallela, normale, di ragazza che si sveglia la mattina, va a fare gli esami, oggi ne hai fatto uno. Sì, ho una vita parallela, un gioco, diciamo. Che esame hai fatto oggi, per esempio? Letteratura americana. Quanto hai preso? 30. Ah, quindi sei anche un po' secchiona. No, non è che sono secchiona, è che mi piace. Sì, sono secchiona. Sei secchiona. Sì. E col mitico professore Portelli. Sì, vorrei salutarlo. Salve, professore. Sempre lui. Allora, il problema è questo. Tu ti svegli la mattina, vai all'università, poi la notte scrivi. Scrivi storie rock. Che cosa sono queste sporche storie di rock and roll? Prima di tutto, quante sono e perché? Le sporche storie di rock and roll hanno una storia molto divertente, nel senso che sono nate particolarmente per caso. Ho cominciato a scrivere perché ho fatto i primi 3 anni all'università a Napoli e c'era questa sorta di cenacolo letterario che si faceva periodicamente con una serie di scrittori segreti. In realtà ci conoscevamo benissimo, faceva più figo dire tipo Dead Poets Society. Benissimo, sì. E avevo questo filo conduttore che mi caratterizzava un po' ad ogni cena, tiravo sempre fuori un racconto a tema, però basato sul mondo della musica. Questi racconti sono diventati, sono cresciuti, sono diventati da 3 a 4, poi sono diventati 9 appunto. E ho deciso di metterli insieme, formare una sorta di compilation, perché quello che tendo sempre a fare nella mia scrittura, come anche nel libretto che hai tra le mani, insomma, dove sei Charlie, è il conciliare la parola, la musicalità della parola appunto alla musica per eccellenza. E il rock mi sembra quanto di più vigoroso possibile per dare voce alla poesia. Per poesia intendo tutta la letteratura in un certo senso. Quando a volte i versi, come dico nel libretto, non hanno la forza e il vigore sufficiente ad irrompere nella testa delle persone, perché semplicemente non aprono il libro, aprire il libro è un atto consapevole, la musica può violentare in un certo senso all'inizio, dopodiché genera assuefazione, non ne puoi fare a meno. Quindi sì. Le grandi rivoluzioni poi di questo secolo e dello scorso secolo soprattutto sono nate grazie al rock. Però tu ti riferisci poi a dei gruppi specifici, no? Tipo i Clash, quali sono i tuoi gruppi preferiti? Perché tu hai 22 anni, London Calling è del 1977, tu quanti anni avevi nel 1977? Meno 10, cioè, avevo meno 10, sì. Avevi meno 10 anni, quindi tu che ne sai, cioè dei punk, di quello che si vive a quell'epoca? Ma in realtà non questa è questa Londra grigia, cupa. No, molto più che grigia, il colore delle creste dei punk a Carnaby Street per me è Londra. Ma sì, Joe Strummer però poi è morto recentemente di cirrosi epatica, quindi questo passato da punk, insomma, sì, è un po', diciamo, un po' sfigato, come il protagonista del tuo libro, tanto per citare le tue parole. No, sono un po' bohemien, no? Anche, non so, tanti poeti maledetti sono morti nello stesso modo, per droghe, per alcol, non che condivida appunto questa fine, insomma, però ecco, è la fine dei cantori, no? In ogni caso. Sì. Tu scrivi: un ragazzo in una camera buia su di un letto, camera stretta, poster alle pareti, cuffie alle orecchie di quelle grandi, giradischi poggiata a terra, il pavimento coperto di vinili che sembrano mattonelle, che sembrano vinili, gli occhi aperti verso il soffitto. In questo piccolo racconto, e poi anche nelle sporche storie di rock and roll che sta per uscire, che uscirà la prossima settimana, il 12 giugno, tu descrivi anche un mondo passato che tu non hai conosciuto, come i vinili, perché sì. Charlie va a cercare, no, in realtà il protagonista conosco, va a cercare vinili, sì. In una discoteca dove c'è Charlie che fa la commessa, no? Questa è un po' la storia. I vinili, poi i gruppi rock del passato, addirittura un poeta che nemmeno io nella mia generazione ho conosciuto, che è Ferlinghetti, la Beat Generation. Lì qui stiamo parlando degli anni 50-60. Sì. E allora non c'è niente di moderno, di attuale che ti colpisce, che prende la tua attenzione? La musica contemporanea di oggi non ti piace? A me piace moltissimo la musica contemporanea, un tipo di musica che ascolto quasi quotidianamente, quella dei Radiohead, che è il mio gruppo preferito, anche addirittura prima dei Clash, perché parla della mia generazione, parla dei miei tempi, e lo fa con uno sguardo musicale poetico appunto che non ritrovo in nessun altro. E poi non è che ne capisca proprio tanto di musica, è che semplicemente mi piace raccontarne, mi piacciono le suggestioni, i colori che dà. Prima parlavo dei colori delle creste dei punk a Carnaby Street. Se leggendo le cose che scrivo le persone riescono anche solo per un attimo ad arrivare a Carnaby Street e toccare con mano quelle creste e pungersi anche, allora l'obiettivo è raggiunto. Anche perché lo possono fare solo con la fantasia oramai. Sì, altrimenti fanno poi una brutta fine, uno poi sceglie l'alcol oppure essere vestiti da un punk, sono tutte cose molto gloriose. Quindi tu come chiami questa cosa? Licenza poetica? Lo scrittore dici può dire quello che gli pare? Ma è un piccolo sfogo a manie di onnipotenza che è permesso a tutti. Scrivendo si può diventare chi vuole, si può creare, plasmare chi vuole senza avere nessun tipo di materia davanti, solo la penna e l'inchiostro. E, ecco, per esempio, a proposito di diventare qualcun altro, in Charlie io mi trasformo in un ragazzo ed è un modo che ho trovato, una sorta di espediente che ho trovato per diventare completamente qualcun altro, mantenendo magari una individualità femminile nell'io narrante che preferisco sempre in prima persona perché mi diverte proprio di più. Ecco, diventando un ragazzo esco completamente fuori da me stessa e non rischio di accennare qualche riferimento biografico? Se lo faccio, magari diventa più nascosto. Sporche storie di rock and roll. Ci vuoi dire quanto sono sporche queste storie, anche con la tua verve spiritosa? Perché mi sembra che oggi sei molto molto composta rispetto a quando parli in pubblico. Beh, sporche storie di rock and roll sono sporche perché il rock è sporco di polvere, è sporco di quello strato di polvere che è bello sentire un po' sotto le dita quando vai a scegliere il vinile dalla cassa, che ti guardano un po' come i cuccioli di cane quando vogliono essere adottati. Una sorta di viaggio temporale che si fa attraverso il vinile, attraverso i racconti legati al mondo del rock, che è una sorta di epifania moderna. È come prendere il Vangelo senza annoiarsi con parabole troppo perbeniste. Io vi saluto, vi ricordo Sporche storie di rock and roll dalla prossima settimana e nelle librerie, edito da Il Caso e Il Vento, oppure anche Dove sei Charlie di Mini Concepts. Salutiamo Holly Orange, che ti chiami in realtà Olga Campofredo. Olga Campofredo. Ringrazio Paolo Corleone in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quatarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.